Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, buona domenica da Andrea Covri e Dario Ronzoni in studio per questa edizione del giornale radio. Partiamo da Lignano, dove si chiude il lungo weekend dell'Ascensione con la prima giornata di sole pieno. Nel centro balneare sono molti gli austriaci presenti, insieme a migliaia di appassionati di motocicletta riuniti per la Biker Fest. E purtroppo ci sono stati anche incidenti, oltre a quello di ieri che ha visto un uomo di 57 anni cadere dal monopattino e sbattere la testa. Alle 5 di questa mattina è stato ritrovato in un albergo un quarantenne di Verona, caduto dal terrazzo su una tettoia dopo un volo di circa 6 metri. Si escludono responsabilità di terzi. Entrambi versano in gravi condizioni. La corrispondenza. Che sia la prima vera giornata simile estiva a Lignano al netto del vento lo si capisce già arrivando dalla tisana, chilometri di coda, tutti con la voglia di godersi un po' di sole e caldo dopo settimane di tempo infelice. Meteo che ha condizionato l'avvio della stagione qui, nonostante questo fine settimana senza pioggia venga definito discreto da Enrico Guerin di Ascom Confcommercio. Molte le stanze d'albergo riempite, in una di queste stanotte si è sfiorata la tragedia. Un quarantenne della provincia di Verona, a Lignano, con amici per un addio al celibato, è caduto dal terrazzo della sua stanza d'albergo, un salto di 3,5 metri, terminato su una tettoia. È stato ricoverato in gravi condizioni, si escludono in questo momento responsabilità di terzi. Ancora più grave invece è stato infatti portato in terapia intensiva a Trieste un 57enne su un monopattino che ieri si è scontrato con una bicicletta. Ma insomma, Lignano si sa, d'estate o attorno all'estate si riempie come fosse una grande città, e questi incidenti capitano. Ad aumentare ancora di più l'afflusso di visitatori c'è il Biker Fest, che sta portando migliaia e migliaia di motociclisti. In questo momento c'è anche peraltro una sfilata di auto d'epoca, forse sentite sullo sfondo anche i rumori di questo passaggio. E dunque un Lignano che si riempie e si avvicina a grandi passi con ottimismo all'inizio vero e proprio dell'estate. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Villa Mannin di Passariano in corso Sapori Pro Loco, la vetrina enogastronomica del territorio regionale. Un territorio valorizzato dagli appuntamenti organizzati dalle Pro Loco dalle feste sacre di primavera. Quest'anno hanno già partecipato oltre 300.000 persone. Sentiamo il presidente regionale delle Pro Loco, Walter Pezzarini. Io sono abbastanza ottimista perché abbiamo i dati di questo primo scorcio di primavera. Parlo della sagra del vino di Casarsa, della festa del vino di Bertiolo, della festa degli asparagi di Cavagnacco, della festa di primavera di Sacile. I dati che abbiamo raccolto ci dicono che in questi eventi ci sono state 300.000 presenze circa, un dato superiore agli stessi eventi organizzati l'anno scorso, ma soprattutto superiore all'ultima edizione antepandemia. Questo ci fa essere moderatamente ottimisti per come sarà l'estate di quest'anno. Com'è invece l'andamento delle Pro Loco? Ma io sono abbastanza fiducioso perché stiamo superando le difficoltà che abbiamo avuto durante la pandemia, ci stiamo riorganizzando puntando soprattutto sulla qualità. Io credo che questa sia l'arma vincente anche nella organizzazione di eventi o sagre, perché per esempio qui a Sapori Pro Loco abbiamo puntato moltissimo sulla qualità enogastronomica dei piatti offerti ai banchi di messa, sulla organizzazione, soprattutto sull'accoglienza, perché viene, mangia bene, si trova bene, questo miglior biglietto da visita per promuovere i nostri eventi. Passariano, Giovanni Tornina, TGR Friuli Venezia Giulia. Un'occhiata al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, variabile in montagna, le temperature registrate alle 11, a Trieste 23,5 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 26, Tolmezzo 21,5 gradi, Forni di Sopra 19, Tarvisio 18,5, Piancavallo 16, Sappada 15, sul Monte Zoncolan 11 gradi, Monte Lussari 7, tornando in costa a Grado e Lignano 25 gradi. Per le previsioni, nelle ore pomeridiane sarà possibile moderata instabilità sui monti e l'alta pianura, con qualche possibile rovescio anche temporalesco. Soffierà bora moderata o localmente sostenuta, specie sulle zone orientali. Farà piuttosto caldo in pianura. Con una bella giornata di sole accompagnata dalla bora, a Trieste in 300 hanno attraversato la città di corsa per partecipare a Corri Trieste, manifestazione che ha unito professionisti e amatori. È stato l'etiope Ararsone Gazagemeda a tagliare per primo in 28 minuti e 46 secondi il traguardo della 20ª edizione di Corri Trieste, competizione podistica su 10 km di tracciato cittadino sviluppato in 8 giri, inclusa nel calendario nazionale della Federazione Atletica Leggera. Secondo classificato il burundese Celeste Ndiukumana a un secondo di distanza, seguito dal keniano Castor Mwene Mojeni con 29 primi e 17 secondi e dall'italiano Yassin Rashik, quarto classificato con 29 primi e 28 secondi. Sono molto contento di questo risultato, anche perché devo fare ancora qualche lavoro veloce, sto appena rientrando da diversi infortuni e la Corri Trieste mi porterà fortuna per le prossime gare. Per le donne, invece, circa il 20% dei partecipanti, brillantissimo è il risultato della più veloce, la keniana Caroline Makandi Gitonga, arrivata in 31 primi e 23 secondi. Partenza e arrivo sono stati allestiti in Piazza Venezia, mentre i rettilinei di percorso erano sulle rive, chiuse al traffico per l'occasione, con un considerevole sforzo organizzativo, come spiega l'ideatore di Corri Trieste, Michele Gamba. Perché ci vogliono tantissimi volontari, c'è una responsabilità, serve poi un circuito abbastanza chiuso, così non dai problematica il traffico, e diciamo che è complicato sicuramente. Circa 300 i partecipanti, in numero chiuso secondo quanto deciso dagli organizzatori per evitare il sovraffollamento, attirati anche dalla possibilità di poter correre in centro città senza le auto. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Calcio, la concentrazione in casa udinese massima per la sfida alle 20:45 al Friuli contro la Lazio. Complice la squalifica di Becao, ci sarà qualche cambio nel reparto arretrato davanti a Silvestri, con Perez sulla destra, Biol centrale e Masina a sinistra. A centrocampo Wallace agirà in cabina di regia, affiancato da Samardzic e Lovric mezzali, e Bosele sulla corsia di destra, mentre Udoge è pronto al rientro dal primo minuto sulla sinistra. In avanti Beto torna a disposizione dopo 4 gare fuori causa per infortunio, che è pronto a subentrare a Nestorovski alla 5ª titolarità di fila con Pereira a supporto. Basket in Serie A2, l'AP Udine ha vinto ieri sera in trasferta la terza partita contro la Gesteco Cividale ed ora è in vantaggio per 2-1 nella serie per accedere alle semifinali della promozione. Gara 4 è in programma domani sera sempre a Cividale. Sentiamo le voci dei giocatori raccolte dopo la partita da Andrea Saule. Prima Rafael Gaspardo dell'APU e poi l'argentino Lucio Redivo per Cividale. Loro sono una squadra con un grandissimo cuore e ottime capacità offensive, e in casa con un pubblico così non mollano davvero mai. Quindi siamo stati bravi anche sui loro ritorni a stare lì in difesa. Lunedì per chiuderla. Sì, lunedì è un'altra guerra, quindi loro non mollano mai, l'abbiamo visto, sono una squadra da un cuore incredibile. Complimenti a loro e ci vediamo lunedì. Penso che dobbiamo giocare con più velocità, è vero che sono più grandi che noi, ma noi siamo più veloci, credo che dobbiamo fare lo del secondo tempo, giocare veloce, muovere la palla, ma adesso già sta, finito, è lunedì. Pallanuoto Serie 1 maschile con il risultato di 11-9, la Pallanuoto Trieste si è aggiudicata ieri alla Piscina Bianchi la prima gara della finale playoff per il quinto posto che assicura l'accesso alla Eurocup. Contro Savona è stata una partita molto tesa e combattuta, decisa negli ultimi 4 minuti quando i triestini in superiorità numerica sono riusciti a recuperare lo svantaggio di una rete e a ribaltare l'andamento della gara con un parziale di 3-0. La Pallanuoto Trieste è riuscita così a interrompere una lunga serie di sconfitte contro i Liguri e ora tenterà di replicare in gara 2 in programma in Liguria mercoledì. Sentiamo l'allenatore della Pallanuoto Trieste, Daniele Bettini, nel dopogara. Come sempre con il Savona ci divertiamo sempre a fare battaglie epiche, è stata una partita veramente molto combattuta, molto, molto gagliarda, e le due squadre si sono affrontate veramente all'arma bianca. Peccato per le troppe espulsioni perché il gioco è troppo frammentato, ma la partita è andata, sono contento che finalmente abbiamo interrotto questa serie negativa col Savona. Adesso abbiamo ancora questa trasferta insidiosissima che è mercoledì e poi vediamo. Basket in carrozzina, Serie B, impresa sfiorata per la Castelvecchio Gradisca che al Palazzimolo non è riuscita ieri ad allungare la serie promozione contro Taranto. La squadra pugliese ha vinto anche la seconda partita per 64-57 e si è aggiudicata così la promozione nella massima serie. Per la Polisportiva Nord-Est la soddisfazione è di aver lottato punto a punto contro la favorita e la determinazione di riprovarci lo prossimo anno. Questa edizione del giornale radio è andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Viola Romanese e Giuliano Pecorari. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Andrea Covri e Dario Ronzoni, grazie per l'attenzione e ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.